L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, per la quale siamo partiti da una intervista a Giovanni Lavia, europarlamentare, presidente della Commissione Ambiente, in cui si parlò di COP22, della 22esima conferenza delle parti sul clima che si è tenuta pochi mesi fa a Marrakech, ma con uno sguardo anche verso il 2017 e ciò che accadrà per il clima e per l'ambiente nel 2017, per concludere infine come sia necessario che l'Europa cambi pur restando competitiva. Da qui andremo poi a conoscere due esperienze che dimostrano che si può davvero fare, per parafrasare un'altra trasmissione di Radio 24, cioè che un'impresa può cambiare per essere più sostenibile, restando competitiva o forse diventandolo ancora di più. Ma cominciamo con Giovanni Lavia. La COP22 di Marrakech ha individuato il percorso per applicare l'accordo di Parigi, gli americani non si sono opposti e il risultato finale è che continuiamo il processo, è un processo irreversibile al quale bisogna dare seguito e quindi è un messaggio forte e importante. Nessuno immaginava che 12 mesi dopo Parigi ci fosse già questo accordo in vigore, quindi più del 55% dei paesi e più del 55% delle emissioni hanno ratificato l'accordo, quindi si continua e questo è un risultato fortemente positivo. Quindi c'è la determinazione, possiamo dire, adesso bisogna fare l'azione. Certo, andare avanti. C'è la determinazione per andare avanti, adesso si stanno declinando le azioni. Sul piano europeo abbiamo già definito i primi passi da fare, abbiamo definito già in Parlamento il nuovo quadro e volto del Emission Trading System, che è l'accordo legislativo, il testo legislativo sulla base del quale verranno passate le emissioni di CO2 da parte del sistema industriale. La Commissione europea ha già fatto le proposte su come dividere questo sforzo, l'accordo di Parigi, tra i 28 Stati membri, e questo pacchetto legislativo si chiama Effort Sharing, che riguarda appunto la divisione dello sforzo tra i 28 paesi. E abbiamo adesso un'altra serie di pacchetti legislativi che riguardano l'efficienza energetica, che riguardano l'economia circolare, che riguardano ancora le rinnovabili. Quindi siamo in pieno lavoro per applicare l'accordo di Parigi e dare un futuro a questo pianeta. E magari anche raggiungere diciamo degli obiettivi ancora più ambiziosi rispetto a quelli che ci siamo dati fino adesso, perché sappiamo che poi a livello globale, ma comunque ciascuno dovrà fare ancora di più, altrimenti non riusciremo a contenere il riscaldamento globale. Ecco, su questa via che l'Europa sta percorrendo arriveremo anche a livelli più alti di riduzione di emissioni? Non c'è dubbio, già il solo fatto che rispetto a quanto avevamo stabilito in sede dell'accordo di Parigi di avere un miglioramento dell'efficienza energetica al 27% entro il 2030, abbiamo già portato questo target al 30%, ma continueremo a fare altrettanto con proposte sempre più ambiziose che però dall'altro lato devono guardare anche alla competitività del sistema imprenditoriale. Dobbiamo crescere in ambizione ambientale ma senza penalizzare la competitività del nostro sistema, perché sennò la necessità di un adeguato sostegno all'occupazione e allo sviluppo non potrà essere coniugato con rispetto dell'ambiente. Quindi dovremmo camminare in modo equilibrato, tenendo da un lato d'occhio la competitività che serve alle nostre imprese e dall'altro spingendo in un circolo virtuoso le imprese verso l'adozione di comportamenti sempre più a basso impatto ambientale. Questa è la sfida che ci aspetta negli anni a venire. E magari trascinando dietro i partner dell'Unione Europea su questo percorso, perché poi è importante anche che sia un movimento globale, no? Non c'è dubbio, da soli non si fa nulla. Le emissioni europee sono appena poco più del 10% rispetto alle emissioni globali. Abbiamo bisogno che tutti gli altri grandi partner, mi consenta l'espressione, inquinatori sul piano globale, adottino comportamenti altrettanto ambiziosi. Ma dall'altro lato dobbiamo supportare i paesi più poveri, perché anche loro dovranno svilupparsi e non possono svilupparsi così come abbiamo fatto noi in passato, inquinando. E quindi questo sviluppo andrà accompagnato con il sostegno a nuove tecnologie in questi paesi che possano saltare la fase dell'inquinamento per andare in una fase di sostenibilità. su questo punto la COP finalmente ha fatto dei passi in avanti, no? Si è parlato di finanziamenti, di trasferimento tecnologico, capacity building, insomma si è cominciato a mettere dei puntelli un po' più precisi rispetto a quello che era stato fatto a Parigi, che era ovviamente un accordo più elastico, quadro da definire. Non c'è dubbio, a Parigi però... c'era l'accordo di principio. A Parigi c'era l'accordo di principio, qua invece si cominciano a dettagliare gli interventi, si iniziano a definire chi fa cosa e in che modo. Dall'altro lato mi sembra che ci sia già uno sforzo sia di soggetti privati sia di soggetti istituzionali pubblici che sul piano internazionale si muovono anche per il sostegno ai paesi meno sviluppati, perché questi possano svilupparsi con nuove tecnologie, eliminando e superando quella fase di sviluppo che avveniva a discapito della qualità dell'ambiente. Per cui ci muoviamo nella direzione giusta, adesso vedremo l'anno prossimo quali saranno i passi raggiunti e come bisognerà affinare il percorso, perché questo è un processo che dura fino alla fine di questo secolo, non possiamo pensare di averlo declinato e concluso con quello che abbiamo fatto, questo è stato solo un primo passo, adesso bisognerà accompagnare il processo con gli aggiustamenti che si renderanno necessari lungo il percorso. Senta, lei è sempre molto positivo, ma c'è qualche perplessità, diciamo, su questa via che stiamo percorrendo, che lei conosce bene, insomma, perché l'ha seguita dall'inizio. È una via nella quale bisogna contemplare da un lato l'ambizione nei confronti dell'ambiente e dall'altro la reale e concreta attuazione di quello che si vuol fare. Purtroppo tante volte in termini ideali è facile dire smettiamo di inquinare, è facile dire non emettiamo più CO2 o gas a effetto serra in atmosfera. Dall'altro lato però, se questo va a detrimento della capacità competitiva del sistema economico, torniamo indietro anziché andare avanti. Per cui dobbiamo contemplare le due cose, bisogna camminare con una velocità nel processo di riduzione delle emissioni che è compatibile con il livello di sviluppo raggiunto dai nostri paesi. Quindi è un processo che dovremo implementare passo passo e speriamo che le nuove tecnologie ci aiutino anche per andare più rapidamente in questa direzione. Anche con un afflato europeo, diciamo, di unità che ogni tanto in questo periodo manca e invece ci vuole per poter fare questa cosa insieme. Non c'è dubbio, perché questa è una politica realmente europea, non è una politica da singoli stati membri e l'Europa è già forse un'aggregazione troppo piccola per poter raggiungere obiettivi significativi. Così ci ha detto l'europarlamentare Giovanni Lavia. Ora, come promesso, parliamo di imprese e iniziamo con ERA, una delle maggiori multiutility italiane, attiva nei servizi ambientali, idrici, energetici, ha sede a Bologna. E cosa cambia per ERA nel 2017? Beh, che arriva l'energia rinnovabile per tutte le attività in Emilia-Romagna. Ci ha spiegato tutto l'amministratore delegato Stefano Venier. In coerenza con le varie politiche sui temi della sostenibilità che un'azienda multi-utility come la nostra ormai gestisce da diverso tempo, abbiamo deciso di utilizzare esclusivamente energia rinnovabile, per cui abbiamo approvvigionato le forniture di energia elettrica che ci serviranno per tutto il 2017 con fonte certificata rinnovabile. Quindi gestiremo i nostri servizi, in particolare la gestione del servizio idrico, quindi la distribuzione dell'acqua, utilizzando esclusivamente energia rinnovabile. Questo è stato possibile grazie, diciamo, a una serie di contratti che abbiamo fatto con produttori di energia elettrica di questo tipo. Allora, il vostro perimetro è particolarmente ampio, quindi immagino sia costato anche un discreto sforzo riuscire a fare tutto questo, economico e organizzativo. Beh, senz'altro l'energia rinnovabile, come sappiamo, ha un costo leggermente superiore all'energia elettrica, quella da fonti tradizionali, quindi ci avrà un leggero impatto economico che abbiamo deciso fosse giusto sostenere nella logica di, diciamo, ridurre l'impatto in termini di emissioni all'interno del nostro territorio. Il perimetro nostro è abbastanza ampio, come ricordava lei, ma soprattutto è ampio in termini di servizi, per cui abbraccia sia la distribuzione dell'acqua che citavo prima, anche le attività nell'energia e l'attività nella gestione dei rifiuti. Tutte queste, oltre a produrre una parte di energia elettrica rinnovabile, in particolare quelle dei rifiuti, useranno solo energia rinnovabile per le loro attività. Però l'acqua, leggevo comunque, è quella che consuma di più. Leggevo il 90% dei consumi, addirittura così tanto arriva, certo, nel vostro... Deve immaginare. sì, perché deve, lei deve immaginare che il ciclo idrico è il ciclo completo, quindi non solo la distribuzione dell'acqua, ma anche la sua depurazione e la restituzione poi ai diversi alvei o al mare dell'acqua pulita. Quindi è soprattutto la parte di depurazione che assorbe molta energia elettrica, per cui nelle varie attività lo sforzo si è concentrato soprattutto nel ciclo idrico, che se vuole associare l'idea dell'acqua con l'energia rinnovabile è un connubio perfetto, perché l'acqua di fatto è uno di quegli elementi essenziali che fanno la gestione sostenibile. La nostra azienda, visto che è di questi giorni la notizia delle infrazioni comunitarie per alcune regioni italiane, la nostra regione, l'Emilia-Romagna, non ha alcuna infrazione comunitaria, che significa che tutta l'acqua che viene utilizzata dai cittadini e dalle imprese è poi trattata negli opportuni impianti di depurazione, e questo assorbe, è la materia prima più importante. Tra l'altro io mi ricordo, la materia prima più importante, tra l'altro una materia prima per la quale voi avete già profuso molto impegno. Ricordo qualche tempo fa quell'impianto che da valle porta a monte l'acqua quando è necessaria e viceversa, no? Quindi è un settore sul quale siete molto, molto impegnati, direi. Assolutamente sì, nel ciclo idrico siamo i secondi operatori italiani per dimensione, distribuiamo quasi 400 milioni di metri cubi di acqua ai cittadini, in un territorio che copre tutta l'Emilia Romagna ma anche una parte del Triveneto e un pezzettino delle Marche. È un'area nella quale abbiamo investito moltissimo, abbiamo investito quasi circa 100 milioni di euro l'anno negli ultimi 14 anni, e questo ci ha consentito di elevare la qualità del servizio ai migliori standard europei. E adesso lo possiamo fare, lo potete fare con energie rinnovabili. Nei rifiuti invece in che punto si usa più energia? La raccolta ovviamente si viene fatta con mezzi tradizionali, quindi un'altra cosa. Quindi quello consumano, e anche lì stiamo lavorando, perché stiamo progressivamente sostituendo i mezzi che utilizzano gasolio con mezzi che utilizzano gas naturale. Ma soprattutto cosa vuole? Nel ciclo dei rifiuti l'energia elettrica viene consumata negli impianti che fanno la selezione per migliorare la qualità della raccolta differenziata. Al tempo stesso l'azienda è dotata di 10 termovalorizzatori, quindi siamo anche produttori di energia rinnovabile, poiché i rifiuti che vengono introdotti all'interno dei termovalorizzatori vengono trasformati in energia elettrica, e siccome all'interno di questi rifiuti c'è una componente biodegradabile, viene assimilata a produzione rinnovabile, cosa che è di fatto, perché stiamo bruciando delle biomasse. Quindi nel bilancio energetico i rifiuti consumano energia, ma sono anche produttori di energia rinnovabile. Pensi che la produzione di energia rinnovabile che viene dai nostri impianti è pari a 500 gigawattora, quindi anche superiore a quei 350 che abbiamo contrattualizzato per il servizio in particolare dell'idrico. Quindi sono due componenti che si sommano, per essere più chiaro. Sia siamo produttori di energia rinnovabile con termovalorizzatori per oltre 500 gigawattora, e per l'energia elettrica che invece utilizziamo sulle altre attività acquistiamo energia rinnovabile per 350 gigawattora. Quindi nel bilancio complessivo del paese diamo un contributo per circa 850 gigawattora. Però la dovete acquistare da altri operatori, nel senso sono due cose l'energia che acquistate. La compriamo da altri operatori, da altri produttori. Cosa vuole? Nel nostro territorio purtroppo noi non abbiamo il privilegio di avere delle dighe elettriche, piuttosto che una regione particolarmente ventosa per cui potevamo installare delle pale eoliche. Di conseguenza l'energia elettrica l'abbiamo acquistata da altri operatori che hanno questi tipi di produzioni. Chiarissimo. Leggevo questi, quindi abbiamo detto l'acqua, i rifiuti, il terzo pilastro era, mi diceva, delle vostre... Quello dell'energia, la distribuzione elettrica e la distribuzione del gas, attività che invece queste assorbono non molti consumi. Poi ovviamente non dimentichiamolo, che grossa parte di quel 10% dei consumi serve per tutte le attività cosiddette di corporate, quindi l'energia elettrica necessaria per i sistemi informativi, l'energia elettrica necessaria per l'illuminazione degli edifici, tutte quelle altre attività collaterali dell'azienda. Ora dobbiamo fare una pausa in questa intervista a Stefano Venier di ERA, proseguiamo però tra pochissimo. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini. Stiamo parlando della necessità di tagliare le emissioni di CO2 in questa puntata. Siamo partiti dalla COP22 di Marrakesh, ora siamo invece arrivati a Bologna, dove ERA, che è una delle principali multi-utility italiane, ha deciso di usare solo energie rinnovabili per tutti gli impianti, i mezzi, le tecnologie, i processi impiegati per le sue attività in Emilia-Romagna. Così facendo stima di evitare ogni anno l'emissione in atmosfera di 144.000 tonnellate di CO2, che sarebbero invece prodotte se per l'energia si partisse da combustibili fossili. Stefano Venier, l'amministratore delegato, ci stava dicendo che però non intende fermarsi all'Emilia-Romagna. Quando le citavo che l'azienda opera in Emilia-Romagna, ma anche in parte in Friuli e nella provincia di Padova e nelle Marche, ecco, il prossimo anno estenderemo anche a questi territori l'utilizzo esclusivo di energia rinnovabile. Come diceva lei prima, organizzare e acquistare questa energia non è stato semplice e quindi adesso nei prossimi 12 mesi ci prepareremo per allargare ulteriormente il territorio, quindi allargare quei 350 gigawattora che abbiamo approvvigionato quest'anno. E certo, quindi aggiungere, poter, come dice, raggiungere anche tutti gli altri territori. Esattamente, poi in un'accezione anche più ampia per uscire, perché poi cosa vuole? Il tema dell'energia rinnovabile nell'ambito degli obiettivi del 20-20-20 è un pezzettino. Poi ci sono gli altri pezzi che riguardano anche gli obiettivi sull'economia circolare, che interessano di più i rifiuti, piuttosto che quelli sulla sostenibilità ambientale del ciclo idrico. Ovviamente l'azienda è impegnata fortemente anche su questi altri fronti, con iniziative che servono a promuovere. Tenga conto che nella gestione dei rifiuti oggi il nostro gruppo ha già raggiunto gli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per il 2025 e per il 2030. E infatti su cui infatti le avrei detto ben questo, nel senso che comunque voi rispetto a quegli obiettivi siete oltre. Siamo molto oltre, perché ad esempio la Comunità Europea, parliamo di temi di questi giorni che interessano altre regioni italiane, la Comunità Europea dice che entro il 2030 meno del 10% dei rifiuti debba andare in discarica. Noi oggi siamo all'8%, quindi siamo già all'obiettivo del 2030. Poi dice che entro il 2025 la quantità di rifiuti del cosiddetto packaging, degli imballaggi, debba essere recuperata per una percentuale del 75%. Noi ormai siamo al 65%, che è l'obiettivo del 2020, e così via. Quindi siamo almeno 10-15 anni avanti rispetto a quelli che sono gli obiettivi che la Comunità Europea ha fissato per i diversi paesi e che noi nel nostro piccolo territorio ci posiziona nelle migliori posizioni europee. Ma un altro ragionamento più ampio che le posso fare è: se lei pensa all'agenda delle Nazioni Unite della sostenibilità, per la sostenibilità, che ha 17 obiettivi, noi siamo impegnati e abbiamo un contributo su almeno 10 dei 17 obiettivi. Questo è per dare il senso dell'ampiezza del ragionamento. Quindi questa scelta dell'utilizzo esclusivo di energia rinnovabile è un pezzettino di un ragionamento molto più ampio che ci vede ormai impegnati da diversi anni su questo fronte. Ma è un ragionamento che voi fate perché dovete farlo o perché, diciamo, ci credete da un punto di vista anche di imprenditoriale? No, ma ci crediamo anche da un punto di vista imprenditoriale. Abbiamo sempre fatto della sostenibilità uno degli assi più importanti della nostra strategia, quindi queste cose qua si costruiscono negli anni. Pensi che ad esempio tutte le iniziative di efficientamento energetico che ci vede tra i primi soggetti italiani, dal 2007 a oggi abbiamo sviluppato 278 progetti di risparmio energetico che ci ha consentito di ridurre il consumo di circa il 3% complessivamente. È ovvio che ha anche dietro una connotazione economica, perché risparmio energetico significa riduzione dei costi, significa servizi più competitivi. Quindi c'è dietro anche un ragionamento economico, come è giusto che sia, perché queste iniziative richiedono investimenti e gli investimenti devono poi essere diciamo, recuperati. Infatti dobbiamo fare in modo che comunque le aziende possano lavorare, cioè che non vengano penalizzate da certe cose, ma che in realtà ne trovino un'occasione per fare impresa. Ma infatti, ma guardi, il ragionamento secondo me che poi va fatto è che questi obiettivi che vengono fissati, che hanno quindi un valore, diciamo, ambientale per il nostro pianeta, no? Vengono fissati sempre con cadenze a 10-15 anni. Perché? Perché è un percorso di transizione complesso che richiede del tempo e richiede di trovare i suoi equilibri economici. Se fosse soltanto imposto, come alle volte vediamo che accade in alcune regioni italiane, che vogliono recuperare 20 anni in due giorni, diventano semplicemente dei balzelli che mettono le aziende fuori mercato. Invece, se il ragionamento è fatto su un orizzonte temporale di medio e lungo termine, con costanza, diventa un'opportunità di business. E chiudiamo qui il capitolo ERA, in attesa di futuri sviluppi, ringraziando Stefano Venier, l'amministratore delegato, e parliamo di qualcosa di molto più piccolo adesso, immateriale e di nascita assai più recente rispetto a ERA, che però contribuisce a una bella riduzione delle emissioni. Parliamo di JoJob, che è un servizio di carpooling aziendale realizzato da BringMe, che è una società nata come startup al Politecnico di Torino nel 2013 su idea di Gerard Albertengo. Non sono loro che risparmiano le emissioni, ma consentono a grandi, medie e piccole aziende di farlo sui trasporti casa-lavoro dei loro dipendenti. Sentiamo Albertengo. Il nostro servizio è nato come una startup del Politecnico di Torino, e ci siamo fin da subito orientati nel gestire il carpooling. Carpooling vuol dire l'auto propria, privata, condivisa. Cioè viaggiamo insieme, quello che una volta era l'autostop. Questo si fa online, un'esigenza molto forte che BlaBlaCar ha perfettamente preso è quella delle trasferte di lunga tratta, quindi il trasferimento da una città all'altra, ecco, questo si può fare in carpooling. Un'esigenza invece enorme, perché in Italia ci sono 17 milioni di pendolari, un'esigenza che non era ancora stata soddisfatta è quella del casa lavoro, cioè tutte quelle persone che al mattino devono andare a lavoro con la propria auto possono farlo in carpooling, ovviamente andando a dimezzare i propri costi di trasporto. Ecco che quindi abbiamo cercato di ideare una soluzione in grado di con facilità individuare i possibili compagni di viaggio per andare al lavoro assieme. Questo è JoJob. JoJob è la piattaforma web, l'applicazione mobile, il suo scopo è proprio questo. E quindi la piattaforma voi l'avete via via presentata alle varie aziende? In modo che internamente ci si potesse organizzare per ridurre, diciamo, il numero delle auto dei dipendenti in movimento? Esattamente, esattamente. Noi lo presentiamo alle aziende perché? Perché oltre al sito web, l'applicazione mobile permette anche di misurare il risparmio in termini di CO2 generato dall'auto condivisa. E questo è un dato che le aziende apprezzano molto per migliorare i propri bilanci di sostenibilità. Ed ecco che abbiamo trovato il valore per entrambe le parti. Da un lato il dipendente ha modo di risparmiare notevolmente usando JoJob, dall'altra parte l'azienda ha modo anche di misurare questo reale risparmio sia in termini energetici che ambientali. Quindi noi ora andiamo dalle aziende a proporre il servizio che poi viene a loro volta ribaltato sul dipendente, quindi offerto a tutti i dipendenti. Il bilancio di sostenibilità lo fanno principalmente le grandi aziende, però il servizio può servire anche a quelli più piccoli, insomma, chiunque può avere una piattaforma di questo tipo per gestire. Beh, è di sicuro un intervento welfare, quindi per il benessere del proprio dipendente, che sia un'azienda da 100 dipendenti o da 1000, un intervento di questo tipo facilita la raggiungibilità dell'azienda stessa, quindi migliora la qualità della vita del dipendente per raggiungere l'azienda tutte le mattine. Quindi è un intervento che abbiamo moltissime aziende al di sotto dei 200 dipendenti che utilizzano il servizio e che oltretutto ottengono anche ottimi risultati. Dunque, mi vengono molte curiosità. Io penso alla nostra azienda, ci sono tanti che arrivano alla stessa ora, ma poi ciascuno va via un'ora diversa. Lì bisognerà mettersi d'accordo, immagino. Sì, no, per cui... questa è l'esigenza tipica. Le esigenze sono di due tipi. Allora, gli impiegati hanno un orario flessibile, specialmente in uscita. JoJob li aiuta in questo modo. JoJob è una rete, cioè è in grado di dire a un qualunque dipendente quali sono tutte le persone che quella tratta, ma non solo i colleghi, anche i dipendenti delle aziende limitrofe. Quindi con JoJob ogni persona si crea una rete di contatti di possibili autisti o possibili passeggeri e con questi organizza il viaggio di ritorno. Allora, se io ho l'orario flessibile, oggi esco alle 6, avrò 3 o 4 persone che rientrano alle 6. Se devo uscire alle 7, ne avrò altre 3 o 4 che escono alle 7. E così si formano degli equipaggi variabili. Quindi più contatti ho, più la mia flessibilità viene gestita in maniera ottimale. Ah, adesso questo mi ha così rasserenato, diciamo così, no? Perché se io non viaggio sempre con la stessa persona, ma ho la rete di persone che fa la mia stessa tratta e quindi cerco tra di loro chi fa il mio stesso orario, diciamo, quel giorno. Ha detto la parola giusta, la rete di persone. Dunque, voi quando siete partiti, magari qualche esempio che possiamo portare di lavori già avanti, già sì. Testati? Allora, Jobbe in realtà è molto recente, è una storia molto breve, perché è nato nel 2014, ma è stato lanciato a marzo del 2015, quindi ha superato da poco l'anno e 9 mesi. Abbiamo attivato il servizio in oltre 100 grandi aziende in Italia, quindi in assoluto il carpooling aziendale più diffuso in Europa, e con una crescita molto molto veloce. Questo perché nelle aziende i risultati sono notevoli. Ne ho preparati qui due casi molto differenti. Una è un'azienda impiegatizia, Jux Net Apporté, con sedi a Bologna e Milano. L'altra è la Lucchini, che è un'azienda prettamente operaia, quindi con due tipologie di dipendenti differenti. La Lucchini è anche molto recente l'attivazione. Allora, per citarvi alcuni dati, un'azienda, la Lucchini, che è partita ad ottobre, in 3 mesi ha fatto 1200 viaggi certificati in carpooling. Quindi vuol dire che sono state risparmiate, poi hanno un equipaggio medio di 2.12, sono state risparmiate circa 1400 auto in 3 mesi, risparmiando 2068 kg di CO2. Un numero enorme. La Jux, invece Jux Net-a-Porter, nell'arco di un annetto, in questo caso, ha superato le 2000 auto risparmiate e le 6 tonnellate di CO2. Il bello è che riusciamo a dare dei dati così precisi proprio perché l'applicazione misura quanti chilometri sono stati fatti assieme e quindi riesce a dire quanta CO2 realmente è stata risparmiata attraverso questo intervento. E questo, vabbè, è la parte che appunto certifica l'efficacia, diciamo, no? Perché sapete i chilometri, sapete, e quindi in base a quello si può calcolare tutto il resto. La vostra proposta, diciamo, alle aziende comprende anche, diciamo, la spiegazione ai dipendenti? È fondamentale, no? Perché uno può aderire, ma poi se i dipendenti non usano il servizio è un fallimento. Invece è proprio qui che bisogna basare il massimo dello sforzo. La piattaforma, la tecnologia sicuramente è utile, ma quello che maggiormente ha inciso sui nostri risultati è stato l'attenzione nel far sì che il dipendente comprenda l'utilità di un servizio del genere. Job è un'alternativa di trasporto, bisogna spiegarlo. Quindi noi andiamo fisicamente in azienda, in ogni azienda cliente, a fare formazione e info point. Cioè ci assicuriamo che chiunque comprenda come può utilizzare JoJob e quando può utilizzarlo. Questo ci permette di ottenere un risultato medio in Italia del 35% di adesione della forza lavoro in ogni azienda dove noi andiamo. Quindi vuol dire che fin dal primo giorno il 35% della popolazione che lavora in un'azienda ha a disposizione un'alternativa di trasporto, che è JoJob. Da quello che diceva, quindi, mi pare di capire che è una cosa che avete appreso, diciamo, con l'esperienza, questa della necessità di presentare bene la piattaforma, far capire così. Cioè, forse all'inizio c'è stato qualche errore? Allora, nei primi mesi di test noi abbiamo selezionato 2 aziende, una in Piemonte e una in Toscana, dove in realtà avevamo lanciato un servizio prettamente sotto aspetto tecnologico. Cioè, si era data la piattaforma, l'applicazione mobile e si era lasciata all'azienda il compito di comunicare al dipendente l'esistenza del servizio. Ovviamente i risultati erano notevolmente inferiori, parliamo del 5-7% di adesione. Con l'intervento del nostro team in azienda, curando la comunicazione, dai materiali alle mail alla presenza fisica, ecco che si è innalzato al 35%. E continueremo a lavorare sotto questo fronte per portarlo a risultati che abbiamo già ottenuto in alcune aziende, che sono 60-70% di adesione. Quindi l'abito fa il monaco, insomma, certe volte, ecco, non è da trascurare, ecco, anche l'aspetto di come uno presenta il progetto. Dunque, io la ringrazio molto. Grazie a voi. Grazie a Gerardo Albertengo, fondatore e amministratore di JoJob. Buon anno e diciamo che alla fine del 2017 tiriamo le somme di quanti milioni di chilometri a questo punto avrete certificato con l'app, no? Siete già arrivati al milionesimo, quindi... Al milionesimo in questi giorni. Infatti verrà premiato l'equipaggio che percorrerà il milionesimo chilometro. Contiamo fiduciosi di superare i 5 milioni di chilometri per fine 2017. Benissimo, li festeggiamo insieme allora. Grazie a Gerardo Albertengo, ideatore di JoJob. Grazie a voi per l'ascolto. L'appuntamento è per la prossima settimana. Da Laura Bettini, un buon proseguimento di giornata.